Blu Radio Veneto. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Ben ritrovati a tutte e a tutti. Eccoci come di consueto all'appuntamento di questa settimana con Soinfo, il punto radio settimanale dedicato ai temi della salute e della società, osservati attraverso uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Ancora per questa settimana continueremo a parlare del benessere dei più giovani e oggi in particolare approfondiremo la figura del pediatra di libera scelta. Sentiamo Annalisa Visentin, direttore del distretto sociosanitario numero 1 di Treviso. Il pediatra libera scelta, oppure come notoriamente se ne parla, pediatra di famiglia, che forse ha un senso maggiore. Il Servizio Sanitario Nazionale prevede appunto per tutti i cittadini dai 0 ai 14 anni la possibilità dell'assistenza con un medico specialista in pediatria. Figura importante, figura che garantisce visite periodiche, visite d'urgenza, visite con idonee prescrizioni, eventuali prescrizioni, esami, strumentali, in modo da dare prevenzione e dare giusta cura nella salute e nella crescita del bimbo. Importante proprio la figura del pediatra di famiglia, che avrà per ogni suo iscritto, per ogni bambino, una scheda sanitaria individuale o cartacea o informatica, con dei compiti fondamentali che sono proprio quelli di gestire le malattie del bambino, ma anche e soprattutto direi seguirne lo sviluppo motorio, psichico, affettivo, neurosensoriale, con quelle tappe di visita chiamate bilanci di salute che durante l'età del bimbo lo seguiranno e promuoveranno la sua salute in tutte le sue sfaccettature. In casi di malattie impegnative, gravi e quant'altro, ci sarà una relazione stretta del pediatra con l'attività infermieristica del distretto per le cure domiciliari. I pediatri possono essere anche coordinati in gruppi, associazione, gruppi o reti, e quindi dare un'assistenza in una modalità organizzata. I bambini possono essere iscritti col pediatra fino ai 14 anni. Ci sono in alcuni casi, sono previste, delle possibilità di prorogare anche fino al 16° anno, dove il bimbo abbia, il ragazzo abbia una handicap, una patologia cronica o situazione di disagio psicosociale importante, possono chiedere di rimanere con lo stesso pediatra anche a tutta la fase dell'adolescenza completata fino al 16° anno per garantirne non discontinuità. Il pediatra fa visite ambulatoriali e eventualmente anche a domicilio quando lo ritenesse necessario e utile, e le visite domiciliari devono essere richieste e valutate l'opportunità con il pediatra entro le 10 del mattino, oppure vengono effettuate, quando chieste, i giorni successivi, nelle ore successive, vengono effettuate il giorno dopo, ma sempre su valutazione del pediatra. In orari in cui il pediatra di famiglia non c'è, non sia proprio ambulatorio, c'è anche l'attività di guardia pediatrica presso le nostre sedi o alla Madonnina o a Oderzo in distretto per il sabato mattina, per poter garantire delle visite qualora ci siano delle problematiche non rinviabili agli altri orari. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.